restassi qui, annullerei gli impegni del giorno. Se solo io potessi vivere di te, mi annoierei. Parliamoci chiaro, se bastasse solo uno nel cosmo, ci ritroveremmo fragili, fragili, fragili. Quando ti vedo addormentata, mi manca il fiato, sono appeso. La più importante occasione per me. Sai, mi hai fatto credere in te, senza prender pillole, io non riesco a smettere. Sai, mi hai fatto credere che tutto sia possibile, tutto sia possibile. Se solo ti avessi qui, rialzerei le sorti del mondo, saresti brividi che dà il nuovo anno. Se solo tu fossi qui, imparerei tutte le lingue in un giorno, studiando assieme 100.000 suoni. Quando ti penso addormentata, mi manca il fiato, resto appeso. La più importante occasione per me. Strada, congeli l'aria intorno, influenzi il tempo e anche me. Il vento vira solo su di te, la testa che mi fai perdere, la tengo in mano altrimenti cade. Sai, mi hai fatto credere in te, senza prender pillole. Smettere, sai, mi hai fatto credere.